Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. C'è finalmente la proposta per il nuovo piano di azione nazionale per le energie rinnovabili e, come anticipato ieri, ne parliamo con il nostro ospite che è Gerardo Montanino, direttore operativo del gestore dei servizi elettrici, che di fatto, essendo il braccio operativo del Ministero dello Sviluppo Economico, ha curato la stesura del piano. Buonasera Montanino, bentornato a Mr. Kilowatt. Buonasera a voi tutti. Allora, dal punto di vista, diciamo, del risultato finale, l'Italia punta a produrre con fonti rinnovabili il 17% del proprio fabbisogno energetico, come richiesto dall'Europa. Dal punto di vista del mix che questo piano propone, non ci sono grandi novità: 16 gigawatt di eolico, 8 gigawatt e mezzo di solare e 4 e mezzo di biomasse, questo per il 2020. Insomma, non grandi novità da questo punto di vista. Intanto le cifre che ha dato sono quelle del settore elettrico, però poi c'è anche il settore termico, nel quale è previsto di triplicare il contributo a fonti rinnovabili. Le principali novità sono: intanto bisogna agire sul risparmio energetico, perché il piano si fonda sull'ipotesi essenziale di non far crescere nei prossimi anni i consumi complessivi di energia, di mantenerli costanti a 131 megatep, che è certamente un traguardo ambizioso, altrimenti gli impianti rinnovabili previsti non raggiungerebbero il 17% di consumo complessivo di energia. Ma penso che tra le cose più importanti c'è intanto l'ipotesi di utilizzare il biometano, immetterlo nella rete di trasporto del gas per poterlo utilizzare nei punti più convenienti, non necessariamente a bocca di impianto di produzione. Sì. Poi c'è una quota di fonti rinnovabili obbligatorie per le nuove costruzioni, come prevedeva già una legge di qualche anno fa, in modo che ciascuno si autoproduca almeno, se ho capito bene, la metà dell'energia che utilizza, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. Infatti, è proprio questo. Ecco, non so se vale anche per l'energia elettrica. Sì, anche per l'energia elettrica, naturalmente si immaginano soprattutto impianti fotovoltaici. E questa è un'indicazione comunque importante, insomma, se verrà messa effettivamente in pratica è un cambiamento importante se pensiamo al settore dell'edilizia. Ecco, e poi torniamo sulle criticità, ma altre novità, per esempio sul settore elettrico, mi pare che sia l'accumulo la cosa che viene fuori con forza. Poiché le fonti nuove, fonti rinnovabili come l'eolico e il fotovoltaico non sono programmabili, ma dipendono evidentemente dagli eventi meteorici, se la quota di impianti in rete dovesse diventare consistente, bisogna vedere come compensare i loro effetti. E quindi la cosa che si cerca di fare è accumulare questa energia in modo da poterla accumulare nel momento in cui la produzione è massima, per poterla poi utilizzare nei momenti di basso contributo di queste fonti. Certo, certo, insomma è proprio un problema anche che si riflette sulla rete, questo della variabilità delle rinnovabili. Ecco, un altro aspetto che viene spesso stressato, come dire, nel rapporto e che è anche molto sentito dagli operatori, diciamo, del settore energetico, è l'incentivazione in qualche modo degli usi termici delle rinnovabili, che fin qui sono stati abbastanza trascurati, si è badato quasi solo all'elettrico. Sì, è vero. In genere i programmi di incentivazione dell'energia termica non hanno molto respiro. Anche quest'anno credo che così com'è il provvedimento finirà a fine anno, e se non lo si rinnova non si dà certezza di investimento agli operatori che lavorano nel settore. Un principio che ci si aspetta tutti dai meccanismi di incentivazione, che siano stabili, cioè durevoli per lungo tempo senza grosse modifiche, e anche prevedibili, cioè che si sa a posteriori come evolvono, altrimenti chi fa investimenti contando su certe incentivazioni potrebbe rimanere poi scottato da modifiche in progress della normativa. Certo, come questa che peraltro si è paventata con l'articolo 45 dell'ultima manovra, che aboliva il ritiro del GSE, ma entriamo in cose tecniche, non è il momento di parlarne. Le chiedo allora, Montanino, quali sono invece le principali criticità? Intanto la rete elettrica mi sembra che sia percepita come una delle principali criticità allo sviluppo delle rinnovabili nel paese. Sì, la rete già adesso presenta delle criticità nelle zone in cui l'eolico è più diffuso, e già da qualche anno che nei momenti di massimo vento gli impianti non riescono a produrre, e si stima che quest'anno abbiano prodotto il 10% in meno di quanto avrebbero potuto fare. Chiaro che se riusciremo a fare questi ulteriori 8, 9, 10 mila megawatt di eolico più o meno nelle stesse zone, perché il vento in Italia è soprattutto nell'area a cavallo di Puglia, Campania e Basilicata. Bisognerà potenziare per tempo la rete elettrica per consentire di produrre a questi impianti e trasferire energia sui carichi. È un problema molto generale, tra l'altro, comunque, delle rinnovabili. C'è bisogno di una rete che sappia far girare l'energia, come dire, prendendola dove viene prodotta di volta in volta, girandola dove serve. Un altro aspetto, però, che potremmo per certi versi definire infrastrutturale è quello normativo, perché insomma l'infrastruttura qui è fin troppo ricca, forse. L'aspetto autorizzativo, le dice? Sì. Quello è un punto chiave, in effetti con la modifica della Carta Costituzionale la competenza in tema di autorizzazione è passata alle regioni, ma in assenza di linee guida che avrebbero potuto ispirare le normative regionali per mantenere tra di loro una coerenza, ciascuna regione si è organizzata come meglio credeva e così al momento è una materia a macchia di leopardo. In genere i tempi previsti, i cosiddetti 180 giorni necessari per l'autorizzazione unica, non vengono rispettati quasi mai, i tempi si allungano. Mi diceva un mio amico che ha cercato di fare un impianto nella regione che conosceva, ma sono 800 giorni che aspetta l'autorizzazione e questi tempi sono insostenibili per gli investitori. Assolutamente. E giustificherebbero in parte l'elevato volume degli incentivi. Io ritengo che sia corretto, come dire, velocizzare queste autorizzazioni e dare gli incentivi che bastano, certo. E non più di tanto. Va bene, grazie Montanino. Prego, buonasera. Buonasera anche a tutti gli ascoltatori. Mister Kilowatt torna domani, parleremo dei programmi di finanziamento europei per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Buona serata.